Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. State per ascoltare un'ora di Eclettica, sempre che lo vogliate e soprattutto che io riesca a convincervi minuto dopo minuto, brano dopo brano, incipit dopo incipit, sprazzo cinematografico dopo sprazzo cinematografico, a non cambiare frequenza. Sia che sia la frequenza radiofonica reale, nel caso stiate ascoltando in diretta, sia che sia la frequenza, chiamiamola virtuale, del vostro lettore MP3, su cui avete scaricato la trasmissione grazie al podcasting, di cui trovate tutti i dettagli su myspace.com/eclettica. E Giulio Caperdoni, come tutti i giorni, fra le 19 e le 20. Il fiume è il fiume per eccellenza, per antonomasia. Non c'è Orinoco o Rio delle Amazzoni che tenga. Il Po, altro fiume. Si sa che nasce dal Monviso, per definizione, ma è più invenzione letteraria che geografia. Il Reno esiste, ma quando si incontra con il fiume cambia nome e genera un territorio indefinito che si chiama appunto i due fiumi e la larga Iara attorno, perché il fiume non è affluente di nessuno, esiste in sé, quasi come Dio. Non nasce, è. Sopra la diga si chiama bacino, più in su è territorio misterioso e inesplorato come le sorgenti del Nilo. Dalla diga in avanti è appunto il fiume. Questo era l'incipit di Croniche epafaniche di Francesco Guccini. Thank you. Welcome to Alaska. Here's $1,000. Well, it's about time. But why? We pay every resident $1,000 to allow the oil companies to ravage our state's natural beauty. I'm home. We'll be right back. Ore 15. Oggi è tornato il sole, ma qui c'è da lavorare un po'. Scopa e straccio in mano, cuffie nelle orecchie, parte il podcast di Eclettica. Durante la settimana non riesco più ad ascoltarti via etere. Purtroppo non ho più la possibilità di ascoltarti in diretta, Giulia, quindi mi aggrappo al podcast. Il fine settimana scarico le trasmissioni, durante la settimana in serata ascolto Eclettica della settimana precedente. Sinceramente è come se mi mancasse qualcosa. Diciamo che sono grata al podcast, ma sinceramente adoro la diretta per le emozioni che mi regala. Comunque, se non ci fosse il podcast, sarebbe un vero disastro, sai. La musica alleggerisce gli animi. Eclettica alleggerisce la pesantezza che accumuli durante la settimana. Questa è stata una settimana pesante e, ah, magicamente i Collections of Colonies of Bees aiutano a lasciarti le ansie e le angosce alle spalle. Un gran pezzo, un pezzo da urlo, un incanto. Tutto sommato diventa piacevole stare in casa a fare pulizie. Pulizie scuoti culi a ritmo di musica. È una buona occasione per ascoltare Eclettica. Non sarebbe una cattiva idea incollarsi le cuffiette alle orecchie? Le giornate grigie diventerebbero raggianti. Un ascolto continuo, costante, per liberare l'animo. Vi ho invitato, vi invito, continuerò a farlo, a scrivermi quelle che sono le vostre sensazioni, i vostri desideri, quello che vorreste, quello che non vorreste che Eclettica fosse, o anche quello che fate quando ascoltate Eclettica, come ha fatto nei giorni scorsi Rachele da Pisa e quindi ha avuto l'onore della lettura. Però questo non vuole essere la premessa per l'ascolto dei Collections of Colonies of Bees appena citati. Ci saranno questa settimana, ma sicuramente non come prossimo brano, magari nel resto della trasmissione di quest'oggi, oppure domani o domani l'altro. Sapete, Eclettica è come un concerto live, c'è molta improvvisazione, molto legato all'estro del momento. Estro che mi ha fatto fare un giro per il mondo partendo dalla Germania, una delle mie canzoni preferite del momento, quella che ha aperto Eclettica di quest'oggi, ovvero sia I Sold My Hands for Food, So Please Feed Me, di Get Well Soon da Berlino. Poi ci siamo trasferiti negli Stati Uniti, Foot Village è il nome della formazione che ci ha fatto ascoltare Protective Nourishment. Per passare ora al Giappone, il Giappone del duo Afri Rampo, un duo che esiste dal 2002, loro vengono da Osaka, come un'altra band di Osaka, i Boredoms, si basano molto sul rumore e sull'improvvisazione e anche sul nonsense. Hanno fatto tour con Sonic Youth, con Yoko Ono, hanno partecipato ad un'edizione dell'All Tomorrow's Parties ed ora sono in uscita con un nuovo album, visto che corto, pur essendo in giapponese tento la pronuncia, Suto Brekor, che non è nient'altro che una sola lunga traccia divisa in movimenti. Noi ci ascoltiamo il movimento numero 6. Thank you. Non è mica un lavoro facile andare a stare in città. Che senso ha? Cosa vuol dire? Dov'è la necessità? Lì d'attorno hai la tua vita tutta intera, quello che ti basta. Tutto il tuo bisogno senza stare a cercare inutilità più o meno vaghe, di località remote e di posti sentiti dire ma non conosciuti, e forse paurosi. Hai un fiume, dei monti, degli alberi e delle stagioni, della gente che conosci e incontri tutti i giorni. E allora? Non si vive? Non si mangia? Non siamo già coperti e rincalzati, protetti dal freddo e da altri eventuali spiacevoli improvvisi accadimenti atmosferici? Siamo garantiti o no? Cosa c'è da andare a cercare in luoghi che non sai? Cos'è? Cos'è questo improvviso desiderio d'avventura, di cambiamento, d'emigrazione, di Patagonia? Questo era l'incipit di Vacca d'un cane, di Francesco Guccini.